segua la nostalgia. Se un amore devi scordare, non passare per questa via mai. Ma se ami la frenesia di una vita multicolore, tutto trovi solo se vieni qui. Questa strada sembra finta e dipinta da Renoir. C'è una fetta di Manhattan e una fetta di Boulevard. Quando è notte ha più voci, ha più luci di Broadway. Qui la luna sembra giada, dolce strada. Il mercato delle illusioni che si tiene per questa via è il più squallido che ci sia, sì. Qui si vende gloria e speranza, il successo qui puoi comprare, ma che prezzo dovrai pagare tu? Quanta gente disperata sta in vetrina nei caffè. C'è l'attrice sorpassata e un grassone che era re. Il gran sarto con l'amico sono pronti a sorseggiare una vita dolce e scialba fino all'alba. Rassomiglia a una quadriglia il via vai dei nostri eroi. Il semaforo sbadiglia sulla diva e il suo playboy. Ora arriva il paparazzo e li mitraglia con il flash sui giornali del mattino. Che casino tra il regista e la stellina alle 4 del mattino. Gira un po' di polverina, annusarla è molto in. E se poi quella biondina senza sogni e gioventù con il sole sarà morta, ma che importa? E continua la sfilata dei fantasmi con il frac alla caccia disperata di un articolo o di un ciac. Una ignota francesina improvvisa uno striptease. È il biglietto per l'ingresso del successo. Quando il sole è più vicino e ritorna la realtà, si fa vivo il netturbino, vero re della città. Spazza i sogni e le cartacce, fischiettando se ne va. Ecco dove sei finita, dolce vita.